Radio 24 Reportage. Brasile, storia di favelas, in collaborazione con la Radio Svizzera Italiana. Io sono Diacono Arley, sono membro della comunità cattolica Palavra Viva. La comunità è nata in Brasile 13 anni fa. Io sono uno dei primi, sono stato insieme al fondatore della comunità, ho conosciuto lui prima ancora di iniziare questa comunità. Palavra Viva, una piccola comunità cattolica fondata in Brasile nel 1995 da Alisson Norberto da Costa, presente in alcuni paesi europei, tra cui la Svizzera, a Lugano, dove i membri frequentano la facoltà di teologia. Sono una quindicina, tutti giovani, e nel quartiere di Molino Nuovo hanno due residenze. La loro terra è, come detto, il Brasile, il paese con il maggior numero di cattolici al mondo, attorno ai 140-150 milioni, ma anche il paese in cui non cessa di progredire il numero di movimenti di matrice cristiana pentecostale in testa. Arley, Eloana ed Everton sono tre membri di Palavra Viva. Il loro racconto ci introduce in questa comunità di vita e ci chiarisce almeno in parte le radici sociali in cui il cattolicesimo brasiliano si sviluppa e si muove. La comunità cattolica Palavra Viva, anzitutto, è un'associazione privata dei fedeli, riconosciuta ufficialmente dall'Arcidiocesi di Diamantina in Brasile, nella regione di Minas Gerais, al sud-est del Brasile. Noi, membri della comunità, siamo sentiti chiamati da Signore, da Dio, per divulgare e annunziare la parola del Signore. Questo carisma della comunità è quello che noi diciamo come motto della comunità: cattolici che annunziano Gesù al mondo. E il carisma è quello di annunziare Gesù, di annunziare la parola di Dio, cercando di coinvolgere sempre, riscattando nel cuore della persona umana, evangelizzando di preferenza i giovani, le famiglie, insomma, riscattando il sacro nella Chiesa, nel cuore dell'uomo e della donna. Voi avete però anche un impegno nell'ambito sociale, soprattutto in Brasile. In Brasile, a Curvelo, noi abbiamo la scuola di evangelizzazione. In questa scuola studiano e lavorano gli allievi, e anche quello che riguarda il sociale, sono lì presenti per aiutare quelli che hanno bisogno. Una vostra comunità è presente anche in Ticino, qui a Lugano. Frequentate la facoltà di teologia tutti. Ecco, come è nato questo legame con Lugano? È nato dal momento che il nostro fondatore voleva venire in Europa per partecipare di un convegno di tutte le nuove comunità nell'anno di 2002, ed è venuto ad Assise per partecipare di questo convegno, e lì, durante il svolgere di questo convegno, ha conosciuto il rettore della facoltà di teologia. Da lì è nata questa amicizia. Praticamente dopo un anno siamo venuti tre fratelli, sono già partiti, non c'è più nessuno qui perché hanno già finito il ciclo di filosofia e quello di teologia. Quanti membri conta la vostra comunità, sia in Brasile che all'estero? La comunità è composta, divisa in due parti. La prima parte è quella dei consacrati, che lasciano la loro famiglia, le loro case e si consacrano a Dio. E l'altra parte, chiamiamo di comunità di alleanza, è composta di laici, sposati, non sposati, giovani, tutti battezzati nella Chiesa Cattolica, che vogliono partecipare, che si sentono chiamati a questo carisma. Appartengono alla comunità, però la differenza è che i laici rimangono nella loro casa, con il loro lavoro, svolgono la vita sociale, civile, e aiutano la comunità nella loro possibilità di tempo. I consacrati siamo circa 140, fra cui 35-38 più o meno è in Europa, gli altri sono laggiù in Brasile. In Europa siamo qui in Ticino 15 tra fratelli e sorelle, poi abbiamo una casa delle sorelle a Roma e due missioni in Francia. Veniamo alla realtà da cui voi venite, quella brasiliana. Che tipo di cattolicesimo c'è in questo momento in Brasile? E nelle grandi città, São Paulo, Rio de Janeiro, ad altre città grandi, quella realtà delle persone che partecipano delle chiese protestanti, evangeliche, ma anche la parte che noi riconosciamo come le sette, quella cresce molto in Brasile per alcuni motivi, ad esempio per quanto riguarda la difficoltà sociale, le persone che non trovano lavoro oppure che non hanno niente da mangiare e magari si sentono chiamate, coinvolte da queste sette che offrono a loro una possibilità di ripresa. In verità il Brasile è come un paese che adesso è denominato un paese emergente, che sta crescendo molto, la religione sta diventando difficile perché c'è sempre questo benessere che coinvolge a tutti. Tante disparità economiche e sociali? Sì, c'è una differenza grandissima. C'è una parte che è molto ricca, però c'è una parte molto povera che non ha niente, non hanno casa, non ha niente da mangiare, non ha lavoro. C'è questa realtà difficile delle favele dove ce ne sono delle grandi violenze, la droga, però non siamo sperduti, non siamo sconfitti perché c'è sempre la possibilità di ripresa. E noi cattolici dobbiamo lavorare per quello. Il cattolicesimo in Brasile deve fare i conti con la teologia della liberazione. La comunità Palavra Viva non è coinvolta da questo punto di teologia che noi chiamiamo teologia della liberazione, perché questa fa una lettura un po', diciamo, storta dalla realtà dell'antropologia dell'uomo, perché cerca di condividere, infatti, i beni, le ricchezze, ma senza riguardare che l'uomo è stato salvato da Gesù Cristo. Fica conosco, Signore. Fica conosco, Signore. Io mi chiamo Eloana, sono brasiliana, vengo da una regione che si chiama Minas Gerais. È una regione tradizionalmente cattolica. E lì, siccome i movimenti della Chiesa Cattolica sono anche così vive, provano di attirare i giovani alla Chiesa con canti, con feste, con animazione, però con cose sacre, allora sono stata attirata da questi gruppi della Chiesa che facevano festa. All'inizio sono andata alla Chiesa perché vedevo anche un po' di gioia, ero una ragazza che non aveva tanta gioia a casa, sono uscita per quello. Allora ho cominciato a 18 anni a fare un'esperienza di chiesa. Sono stata battezzata quando ero piccola e poi niente. Allora io sono frutto di questi impegni, di queste iniziative della chiesa. In questo processo di cammino che vivevo così, ho trovato la comunità cattolica Palavra Viva, che c'era proprio come carisma vivere l'evangelizzazione. Era proprio annunziare Gesù, fare con che altre persone possono avere anche questa esperienza di gioia, di allegria, di essere un cristiano, di essere un cattolico. Allora mi sono sentita proprio di entrare. Ho finito gli studi e sono andata alla sede della comunità che è a Curvelo, da dove viene il diacono Arley. E lì sono rimasta per un anno e mezzo e poi, siccome la comunità aveva queste proposte di studio di teologia e filosofia qui a Lugano, e me la sentivo anche nel cuore di studiare, e si è fatta una scelta della comunità e sono venuta per abitare qui in Ticino. Ecco, in Ticino dove, immagino, quello che ci ha raccontato adesso, ha trovato un substrato cattolico, una manifestazione del cattolicesimo completamente diversa, perché qua è difficile che si veda la gente per strada organizzare delle feste, dei balli per evangelizzare. Ecco, com'è stato l'impatto? Sicuramente la gente, la cultura, l'esperienza di chiesa è sicuramente diversa dal Brasile. È un fatto, non dico soltanto di chiesa, ma di persone, un'altra nazione, un'altra cultura, un altro continente. Quando arriviamo qua ci dicono già quello che troveremo. Cosa vi dicono? Per esempio che non vedrete in chiesa, non so, la batteria o la chitarra elettrica come vediamo noi lì. Ma cerchiamo anche di capire tutto e non perdere questa gioia e portarla e passare l'esperienza che abbiamo noi e così ricevere anche l'esperienza che la Chiesa qui c'è, che è una teologia forte, che i preti sono preparati, c'è tanto studio e così facciamo questo scambio. Noi portiamo la nostra esperienza, quello che abbiamo vissuto, che abbiamo sperimentato. Questo studio che riceviamo qui nella facoltà di teologia complementa tutto quello che abbiamo vissuto. Cosa c'è nel suo futuro? Allora, io studio teologia e filosofia, questo è il mio ultimo anno. Quando finisco gli studi, siccome la nostra comunità è missionaria, posso andare o da un'altra casa di missioni o tornare in Brasile con tutto quello che ho ricevuto di studio, tutta la formazione che ho ricevuto per aiutare anche lì quelli che non hanno avuto l'opportunità che ho avuto io di ricevere questa formazione.